quelli che non sono come te. E forse non sapremo mai chi siamo, ma siamo quelli che la vita è lacrime e sappiamo dire no se non è umano. Quelli come noi, noi che non siamo degli eroi, però quelli come noi ci sono e siamo liberi di sognare, più leggeri della realtà, liberi di sognare per poter vivere come ci va, liberi di sognare perché di noi domani che ne sa. Siamo liberi di sognare fino all'alba del giorno che verrà. Ci sono quelli che non sono come te, ma tu non te ne sei mai accorto prima. E sono quelli che non sanno mai perché, ma san sognare fino a domattina. Quelli come noi e che gli altri facciano gli eroi. Liberi di sognare, più leggeri della realtà, liberi di sognare che prima o poi qualcuno ce la fa. Liberi di sognare quando tutto il resto non ci va, perché siamo liberi di sognare